Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, etichettatore, buongiorno. A Milano un festival davvero originale. L'Italia è un po' diventato il paese dei festival su tutto e dappertutto, ma questo è decisamente singolare. È il festival dei beni confiscati alla mafia. Si chiude oggi a Milano, sono stati 3 giorni ricchi di 90 eventi, dalla presentazione di libri agli incontri per le scuole, ma anche spettacoli teatrali e concerti. E sono state inaugurate 3 associazioni che avevano sede proprio nei beni confiscati alla mafia. Avete mai sentito parlare di impresa formativa simulata? Forse sì, forse no. Noi vi raccontiamo una storia che parte da Vimercate ed arriva fino ad Assisi. È la storia dell'Istituto Floriani di Vimercate. Il dirigente scolastico Enrico Danini è con noi. Buongiorno Enrico Danini. Buongiorno. I ragazzi dell'Istituto Floriani di Vimercate, in impresa appunto formativa simulata, hanno fatto un lavoro eccezionale, straordinario ad Assisi. Quale lavoro hanno fatto? È stata una scommessa, come tutte le scommesse un rischio e come tutte le scommesse anche dei risultati possibili che sono venuti. Abbiamo avuto un contatto con i padri francescani di Assisi, della Chiesa Nuova di Assisi, padre Francesco De Lazzari, Gian Maria Polidori, Gualtiera e Don Marco, e con questi padri abbiamo visto come è possibile di illuminare con il LED, con la tecnologia LED, la Chiesa Nuova di Assisi, dove Francesco è vissuto nella prima parte della sua vita. È una chiesa dove sono stati scoperti degli affreschi in tempi abbastanza recenti, ma l'illuminazione era inadeguata. Ed è lì che è nata l'idea progettuale, di poter in questa chiesa operare per renderla più bella, più positiva, ecco, con il LED e anche più... Ecco, quindi i suoi ragazzi nei giorni scorsi hanno, come dire, progettato, realizzato in maniera esecutiva il progetto di trasformazione dell'illuminazione da incandescente a LED di questa chiesa. L'hanno fatto come degli operai, come dei tecnici. Degli operatori che, a dire la verità, non è in questi giorni. La situazione, il progetto si è realizzato in questi mesi, anche con tecnici esterni alla scuola, la ditta BS di Agrate, con Ruggero Fabrizio, che è un illuminotecnico, ha predisposto con gli insegnanti della scuola un piano di illuminazione. I ragazzi lo hanno poi realizzato in questi giorni, studiando la loro parte, ed è bello vedere questi ragazzi con il computer, vedere dove posizionare le luci, ed è un lavoro che si è realizzato nella settimana a cavallo tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre. Bene, grazie Preside. Quindi da Vimercate, dalla Lombardia, dal cuore della Brianza ad Assisi, un'altra testimonianza importante di che cosa può voler dire l'impresa sociale, anche se in questo caso simulata. Grazie ad Enrico Danini e complimenti per il lavoro. Grazie. Chiudiamo con una notizia di no profit, di quanto importante sia, ne abbiamo parlato tante volte, della necessità di una forte economia civile per superare la crisi, e questo è il tema della 7ª conferenza nazionale della donazione. Mercoledì l'appuntamento è all'Auditorium Asso Lombarda ed è organizzato proprio dall'Istituto Italiano della Donazione. Grazie per averci ascoltato, vi ricordo mi piace ferrivuoto-radio24 su Facebook, grazie ad Anita Panizia redazione e a Fabio Cantadori in regia. Buona giornata.